Eccoci con Deborah Pietrobono per parlare della terza edizione di Venti d'Estate a cura dell'Associazione Doppio Ristretto a Roma, all'Isola Tiberina, dal 2 luglio al 5 agosto. Deborah, ben trovata. Ben trovati anche a voi e grazie per l'invito. Sì, programmeremo Venti d'Estate fino al 5 di agosto. Abbiamo iniziato in realtà con un'anteprima con Massimo Popolizio in una serata dedicata a Philip Roth e andremo avanti appunto per tutto il mese ad approdare al 5 agosto quando Ascanio Celestini insieme a Salvatore Striano e Giovanna Taviani dedicheranno una serata ai fratelli Taviani. Come un po' una piccola tradizione di Venti d'Estate, gli incontri della rassegna sono pensati come occasione per poter riflettere tra quelle che sono le connessioni, i rapporti tra letteratura e teatro, tra politica e società, sempre nella forma di incontri, di reading, di confronto e in alcuni casi anche di proiezione. Avremo appunto l'occasione di presentare dei libri che sono legati molto alla politica o alla società, come Il ministro della paura di Antonello Caporale, questo lunedì 2 luglio, o anche con Giovanni Tizian e Piff rispetto al libro Rinnega tuo padre, pubblicato dalla Terza, che è una sorta di inchiesta di alcuni casi di figli o di mogli che hanno rinnegato nelle famiglie appunto dell'Andrangheta il boss o padre o marito. Il 5 avremo la coppia, il 5 luglio avremo la coppia Leone d'Oro, Flavia Mastrella e Antonio Reccia, moderati con grande coraggio dalla scrittrice e sceneggiatrice Francesca Serafini, e anche questo sarà un modo per raccontare tanti anni di lavoro nel teatro, nel loro rapporto con la televisione e i libri che hanno pubblicato, e sarà appunto un ripercorrere la loro storia lavorativa. Tra l'altro, Deborah, a loro La Biennale di Venezia dedica anche una personale a fine luglio. Esatto, e prima di partire appunto per la Biennale ci regalano appunto questa serata che ripercorrerà proprio tutto il loro lavoro, anche alcune trasmissioni televisive, insomma in qualche modo non vediamo l'ora di incontrarli. Poi avremo appunto Matteo Bussola con La vita fino a te, pubblicato da Stile Libero Naudi, il suo ultimo libro, intervistato da Iaris Elbetella. Poi il 9 luglio Andrea Dell'Ogu e Andrea Cedrola con la recente pubblicazione del libro La collina da parte della Fandango Libri, e sarà anche lì una serata di festa in qualche modo, con letture da parte di attori come Francesco Montanari e anche le musiche di Marco Conniti dell'Orchestraccia. Un appuntamento a cui teniamo molto è quello del 10 luglio con Marco da Milano, Diego Bianchi, Abubakar Suamoro, che abbiamo chiamato questa serata Uomini No, Italia 2018, da che parte stai, prendendo spunto dalla copertina Manifesto dell'Espresso di qualche settimana fa. Così come anche la serata del 27 luglio avremo Michela Murgia e Zero Calcare, moderati anche in questo caso da Marco da Milano, e la loro serata ha un titolo che è molto esplicativo: questa non è una partita a bocce, parole e disegni per raccontare i fascismi. Queste sono alcune appunto delle serate, no, legate a delle questioni molto importanti e coscienti in questo momento. Mentre appunto per la letteratura abbiamo Michela Murgia, che leggerà Grazia Deledda, Canne al vento, o anche la presentazione del libro appena pubblicato Torpedone trapiantati di Francesco Abbate, così come anche il biologo Carlo Safina, che insieme all'etologo Enrico Alleva presentano il libro Al di là delle parole, pubblicato da Adelphi, a firma di Safina, che è una sorta di analisi da parte dello studioso e dello scrittore di quella barriera che per lui non esiste tra gli esseri umani e l'ambiente naturale. Altro personaggio così che appartiene al mondo del teatro e non solo, Marco Paolini, che sarà all'Isola Tiberina il 2 agosto per presentare il libro L'avventura di numero primo insieme all'altro autore Gianfranco Bettin, e modereranno questa chiacchierata, questa questo confronto sulle intelligenze artificiali, il nostro rapporto rispetto alla tecnologia, il nostro rapporto con i telefonini e quanto altro, insieme a Rossella Panarese di Radio 3 e Riccardo Spaglianò, il giornalista appunto della Repubblica. Questi sono alcuni degli appuntamenti di Vento d'estate. Ah, dimenticavo rispetto a gli appuntamenti fondamentali rispetto a uno dei problemi più cocenti, i soccorsi in mare. Il rapporto dell'Italia con la Libia, l'incontro del 19 luglio con Emma Bonino, Annalisa Camilli, giornalista dell'Internazionale, e Francesca Mannocchi dell'Espresso, è un incontro appunto dedicato a questo tema che abbiamo chiamato Libia e soccorsi in mare, gli errori del passato e gli scenari futuri. Ci tenevo appunto a ricordare anche questo appuntamento. E, quindi da parte nostra, spero che sarete con noi anche questa estate, e questo è un po' il programma che potete seguire anche sulla pagina Facebook di Doppio Ristretto. E, questo è quanto. Sì, Deborah, due domande. La prima, se raccontiamo anche un po' l'esperienza, la realtà di Doppio Ristretto. È un'associazione che è nata, questo è il terzo anno, diciamo così, della terza estate di vita, ed è nata dall'incontro di tre operatrici teatrali o operatrici culturali, che appunto sono io, Silvia Barbagallo e Santa Di Pierro, che abbiamo costruito questa associazione, e siamo al terzo anno di Venti d'estate. Le prime due edizioni le abbiamo programmate alla Casa Internazionale delle Donne, quest'anno ci è arrivato l'invito dell'Isola Tiberina e ci sembrava interessante questo tipo di spostamento. Parallelamente poi abbiamo curato, e anche qui la terza edizione, alcuni degli appuntamenti in collaborazione con Coop Culture al Castello di Santa Severa, e sempre incontri legati alla letteratura, al teatro, a volte legati anche a un tema, al tema del mare, nel senso più ampio, no, possibile rispetto a questo tema centrale degli incontri. Ad esempio domenica 1 luglio Lino Guanciale sarà ospite del Castello di Santa Severa in un reading che parte da Corrad, ma attraverso appunto l'Odissea, e questo è uno degli appuntamenti che noi abbiamo curato per Coop Culture. Parallelamente ognuna di noi tre porta avanti il proprio lavoro, e il Doppio Ristretto è un'occasione appunto per lavorare insieme e immaginare delle collaborazioni come quella dello scorso febbraio con il Teatro Quarticciolo, dove per tre giorni abbiamo curato anche lì una rassegna, rapporto che proseguirà, tanto che l'omaggio di Ascanio Celestini del 5 agosto ai Fratelli Italiani è il primo di uno degli appuntamenti che Ascanio vuole dedicare ai italiani e che proseguirà a ottobre al Teatro Quarticciolo. Questo è un po' l'ambito di lavoro, di desiderio, di progettazione di Doppio Ristretto. L'altra curiosità è rispetto a fornire elementi di riferimento rispetto alla programmazione, se ci sono giorni della settimana fissi per la programmazione oppure è tutto variabile. A seconda chiaramente, no, degli impegni degli artisti, è variabile anche lo spazio in cui programmiamo, perché ci sono degli incontri che sono protetti e curati nell'arena più grande e degli incontri che sono invece più adatti a uno spazio più piccolo. Inoltre all'Isola Tiberina c'è il bookshop di Doppio Ristretto d'estate, dove sono appunto in vendita i libri legati alla rassegna, ma non soltanto, e quindi ci faceva anche piacere che per chi frequenterà l'Isola Tiberina avere occasione di poter avere a disposizione i libri legati agli ospiti, ma anche al tema, intorno al tema affrontato. Benissimo. Allora, ricordiamo la terza edizione di Venti d'estate a cura dell'associazione Doppio Ristretto a Roma, Isola Tiberina, 2 luglio fino al 5 agosto. Deborah, in chiusura, ci lasci nuovamente i riferimenti web per saperne di più? Allora, per quanto riguarda la pagina Facebook, è la pagina di Doppio Ristretto, e per avere altri tipi di approfondimenti c'è anche il sito isoladelcinema.com. Benissimo. Deborah, un abbraccio, un in bocca al lupo, grazie, e a presto. Grazie, grazie, grazie, buon lavoro, a presto.